fortunato Mingo, lo credo appena. Voglio fare gran spese, comperarmi voglio una contea, o una qualche duchea, o un marchesato.